Mi sottovaluti, avventuriero. Questa corazza che vedi non è una prigione. È protezione. Le creature dell'oceano non si piegano a un mago assetato di potere. Sono state loro a creare questo guscio per custodire ciò che amano. Nemmeno Kylor è riuscito a distruggerlo. Ma non appena avete messo piede su questo ponte, ho sentito una crepa, una fessura nel guscio. Voi siete i prescelti. Dovete avere questa mappa. Solo voi potete completare la missione e salvare il nostro regno.